Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. L'inverno ormai volge al termine, anche se in questi giorni forse non si direbbe, ma si avvicina invece la stagione calda a lunghi passi, insomma il momento giusto per pensare a quali strategie adottare per difendersi dalla calura estiva. E fra le tante possibilità ce n'è una, tanto ovvia quanto efficace: farsi ombra, fare ombra all'involcro dell'abitazione, specialmente alle superfici vetrate, attraverso cui il sole filtra surriscaldamento, dando gli ambienti e costringendo a un super lavoro i condizionatori o anche semplicemente la nostra pazienza, se magari i condizionatori neanche ce li abbiamo. C'è un termine per definire i moderni sistemi di ombreggiamento, questo termine è protezioni solari. Come vedremo ce n'è di tutti i tipi e per tutte le tasche, ce ne parla proprio Sergio Fabio Brivio, che è consigliere delegato alla sostenibilità e all'innovazione di Finco Confindustria. Buonasera Brivio. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora Brivio, cominciamo spiegando quali sono le superfici più critiche dal punto di vista del surriscaldamento. La superficie più critica in assoluto è quella trasparente vetrata, finestre, corpi illuminanti che sono in facciata, perché attraverso di questi passa il massimo della radiazione solare. Poi però non dobbiamo dimenticare che la radiazione solare incide sui lastrici solari, sulle coperture. Lastrici solari, cioè pavimenti. Lastrici solari, sì. Sono i pavimenti dei terrazzi, degli ultimi piani degli edifici. Questi sono dei captatori di energia che poi la ritrasmettono all'interno dell'edificio nelle ore serali e danno molto molto fastidio con quella bolla di calore che si crea. Poi i balconi e terrazzini, le logge. D'accordo, ecco, entriamo nel vivo, insomma, ci parli un po' di queste protezioni solari, ce ne sono di vario tipo, ognuna anche con la sua efficacia. Diciamo che prevalentemente si dividono in tre grandi famiglie: quelle per esterno, che si installano appunto all'esterno dell'edificio e che devono essere certificate di resistenza al vento, poiché la sicurezza deve essere garantita. Certo. Questo tipo di schermature è più efficace contro l'irraggiamento solare, perché intercetta la radiazione solare proprio prima che attraversi il vetro. D'accordo. Poi, quindi diciamo il miglior risultato si ottiene comunque con le schermature esterne. Sicuramente. Okay. Ci sono schermature esterne di tipo avvolgibile, cioè a rullo, che si avvolgono, fatte con dei teli, si chiamano anche tende da sole oppure tende a caduta. Abbiamo schermature a lamelle, tipo le veneziane o i frangisole alla veneziana, o schermature scorrevoli. Mm-hmm. Passando verso l'interno troviamo la superficie vetrata. Oggi esistono sistemi di schermature che si integrano nel serramento attraverso sistemi microscopici che si inseriscono nella cavità del vetrocamera, oppure per gli edifici moderni terziari che hanno le facciate ventilate, ovvero con due strati di vetro, all'interno di questi strati c'è un intercapedine di circa 25-30 cm dove si collocano, oltre agli impianti di ventilazione, anche le schermature. Perfetto. E poi c'è l'interno, insomma. Per chi invece non ha la fortuna di abitare in questo tipo di edifici con queste tecnologie, rimane sempre la possibilità non secondaria di installare una buona tenda tecnica all'interno del serramento, la quale però sarà un po' meno performante. Ecco, complessivamente quanta energia viene effettivamente schermata da questi sistemi? Allora, una schermatura esterna riesce in alcuni casi a ridurre fino al 90% il guadagno passivo della finestra. C'è un valore che si trova nella terminologia tecnica e che è utile dire, che è il GTOT. Ecco, il GTOT di una schermatura esterna è uguale al 10%, cioè che ha schermato il 90%. Ok, d'accordo, perfetto, molto passando chiaro. Verso l'interno troviamo nell'intercapedine di un vetrocamera o nell'intercapedine di una facciata a cellula una prestazione che oscilla tra il 20 e il 30% questo GTOT, che significa per inverso che la radiazione schermata è dell'80 o del 70%. Quando si installa una tenda tecnica all'interno, purtroppo c'è un leggero decadimento della prestazione e ci si attesta intorno a un 60% di schermatura, ovvero a un fattore solare GTOT del 40%. Ecco, senta, le schermature esterne tra l'altro hanno un'efficacia anche d'inverno, non solo d'estate. Le schermature in generale, mi permetto di dire, poiché sia che si trovino all'esterno o all'interno, offrono comunque un ulteriore strato di materia che deve essere attraversato dalle dispersioni termiche, cioè dalle onde infrarosse che escono dall'edificio per andare verso l'esterno. Ecco, quindi quando si installa una schermatura si deve sapere che si può risparmiare fino al 10% di energia anche nel riscaldamento invernale. Anche il colore ha la sua importanza nelle schermature. Sì, il colore ha la sua importanza perché nelle soluzioni per esterno è da prediligere un colore scuro che intrappola maggiormente la radiazione solare. All'interno invece si deve lavorare per riflessione con colori più chiari. D'accordo. Invece volevo chiederle, c'è però qualche semplice accorgimento che ognuno può mettere in atto a casa sua? Pensiamo per esempio a quanto è complicato modificare l'esterno di un condominio, no? Ci vogliono anni spesso di riunioni e quant'altro. C'è qualcosa di semplice che possiamo fare tutti? Sicuramente, beh, è possibile. Innanzitutto non far passare la radiazione solare nelle ore più calde. Quindi tapparelle, persiane, laddove esistono, vanno impiegate chiuse. Proprio in quelle ore chiuse. Bisogna saper ventilare bene, quindi ventilare al mattino e ventilare alla sera. Sì. Invece va tenuto conto che l'installazione di schermature in presenza di climatizzatori può contribuire in pochi anni a recuperare il costo dell'investimento attraverso una riduzione del fabbisogno di energia per raffrescare. E se invece uno il condizionatore non ce l'ha, forse quel picco di temperatura che normalmente si raggiunge viene comunque smorzato moltissimo. Si può pensare che in una facciata mediamente esposta si può ridurre di 10 gradi il picco di temperatura nelle ore diurne, purché si abbia l'accortezza di aprire la tenda non quando arriva il sole, ma qualche ora prima che arrivi il sole su quella facciata, e di lasciarvela fino a quando il sole non sia scomparso sull'orizzonte. Per fare questo, se posso permettermi, siccome nessuno sta in casa a aspettare il sole e a fare l'azionamento, è quindi preferibile sempre un sistema di automazione. Grazie, grazie Fabio Brivio. Grazie a voi, a risentirci. È tutto, a domani.